24 mattino di Alessandro Milan. Le 7:21 minuti, eccoci cari ascoltatori, siamo in diretta fino alle 9 anche oggi con il nostro sondaggio che subito voglio lanciare. Allora ci ributtiamo sul tema, quello prediletto, pare, di questi tempi, l'attacco alla casta. Tutti contro la casta, anche oggi sui giornali. Quello che vi chiediamo è: ma secondo voi non si sta esagerando? Non c'è troppo accanimento nei confronti dei politici? Ne parliamo alle 8:30, voi votate su radio24.it. Saluto anche Roberto Scaltritti che ci seguirà in regia fino alle 9. Fa un cenno di assenso così. E allora, siamo in diretta e andiamo a vedere cosa ci propongono i giornali in edicola. In primo piano. Martedì 19 luglio, le aperture dei quotidiani. Per il Sole 24 Ore, la crisi del debito affossa le borse, ancora oggi prosegue, varie pagine di speciale sui mercati e sulla manovra finanziaria. Il Corriere della Sera, euro sotto attacco, l'Italia soffre, per Repubblica, mercati, la manovra non basta, la Stampa, borse a picco, torna la paura, per il Messaggero, mercati, Italia ancora sotto tiro. Insomma, vedete che il tema è quello. Per l'Unità, vicolo cieco, c'è una foto di Berlusconi a volto basso. Il rigore non basta anche per Avvenire e il Manifesto, profondo rosso. Mentre giornali come Libero e Il Giornale puntano proprio sulla casta. Sotto la casta l'Italia crepa, così titola Il Giornale, con un appello al centrodestra, mentre rivolta anticasta, assedio ai papponi di Stato, Libero ritorna a questa espressione, i papponi di Stato. Il Fatto Quotidiano invece apre sul suicidio del numero 2 del San Raffaele, Mario Cal, il suicidio dell'impero. Si toglie la vita Mario Cal, vice di Don Verzè al San Raffaele. Da cosa voglio partire però? Beh, non posso non partire dal sindaco di Firenze, Matteo Renzi. Nel Partito Democratico ha fatto un'intervista a Sport Week e ha paragonato gli impiegati del comune di Firenze a fantozzi. Renzi contro gli impiegati, sono peggio di fantozzi. Questo è il titolo del Corriere. Ma Repubblica, impiegati peggio di fantozzi. Renzi accusa, rivolta in comune. E Libero, statali peggio di fantozzi. Renzi fa il Brunetta e lo supera. Allora, l'intervista è questa. Dopo aver visitato entusiasta la sede di Google, nella quale non ci sono badge, campi da ping pong, la parete per l'arrampicata, ecco cosa dice il sindaco. Mi piacerebbe che al comune di Firenze si lavorasse così. E invece mi ritrovo con dipendenti che timbrano alle 14 e un quarto d'ora prima sono in coda col cappotto pronti a uscire. Un'atmosfera, allora ricordate la scena di fantozzi, pronti via. Chiamarli fantozzi sarebbe far loro un complimento. Rincara la dose Renzi. E alla domanda retorica che oltretutto gli impiegati non si possono licenziare, ecco l'attacco di Renzi. No, ci sono le tutele. Vuol sapere qual è l'organizzazione più lontana dalla mia generazione? I sindacati. Più di un iscritto su due è in pensione, mentre noi, se va bene, ci andremo a 70 anni. E hanno giri di affari miliardari. Insomma, Renzi contro i sindacati, Renzi contro gli impiegati che alle 14 timbrano, ma già da un quarto d'ora prima sono in fila col cappotto, Renzi contro gli impiegati fantozzi del comune di Firenze. Sicuramente non mancherà di suscitare, cosa che ha già fatto, reazioni e polemiche questa intervista del sindaco rottamatore del Partito Democratico. La seconda segnalazione la trovo dal Fatto Quotidiano. Carlo Tecce, che è sempre un attento osservatore di quello che succede in Rai, racconta anche in maniera spassosa a pagina 9 quello che succede domani. Il CDA della Rai. Rai, il CDA in trasferta, c'è la fiera del peperoncino. Giovedì riposo, tutti in gita a Rieti dal consigliere Rositani. La vicenda, tra l'altro, evoca anche lui fantozzi, Carlo Tecce, no? Immaginate la scena, un affresco fantozziano, gita aziendale, calura estiva, il ragionier Filini raduna le truppe davanti ai monumentali cancelli di Viale Mazzini, legge a fatica l'elenco dei vacanzieri, scrutando i nomi, Venghi, Venghi, Antonio Verro, Alessio Gorla, Paolo Garimberti, Lorenza Lei, e inforcano le auto blu verso Rieti per omaggiare il collega Guglielmo Rositani, ex missino convertito al berlusconismo, fondatore e presidente dell'Accademia Reatina del Peperoncino. Il ragionier Filini è l'unico protagonista di fantasia di una notizia ufficiale che sembra una barzelletta. La RAI ha annullato il tradizionale CDA di giovedì su richiesta del consigliere Rositani, impegnato a Rieti per la prima fiera mondiale del peperoncino. Cuore piccante, 600 metri quadri di superficie al porticato del Palazzo Papale, verranno esposte 400 varietà di peperoncino rappresentanti i 5 continenti. E allora racconta Carlo Tecce, invitato tutto il CDA della RAI. Alessio Gorla del PDL dice: oh, ci vado, certo, per amicizia e curiosità. Antonio Verro: viene anche lei a Rieti? Chiede al giornalista del Fatto. Sarà una bella giornata. Ci saranno dei giornalisti e vabbè, insomma, questo racconto tra lo spassoso e la barzelletta, ma anche no, racconta Carlo Tecce, il CDA della RAI in trasferta, annullato appunto il consiglio d'amministrazione perché tutti a vedere la fiera del peperoncino. In primo piano. Alle 7:32 minuti, allora i giornali, come detto, si concentrano sulla manovra, su tanto c'è anche la questione della casta, no? Il tema del nostro sondaggio. Vi chiediamo, secondo voi c'è troppo accanimento, non si sta esagerando contro la casta per eccellenza, quella dei politici? Su questo tema e con questo taglio si concentrano vari editoriali, tra poco li vedremo, ma come detto la manovra che non passa almeno il primo esame dei mercati. Tra l'altro voglio segnalare che il Sole 24 Ore da mercoledì parte con un manuale anticrisi, ogni giorno un aspetto, un fatto delle situazioni, delle tensioni che attanagliano gli mercati verrà affrontato giorno dopo giorno. Ieri lunedì nero per Piazza Affari, come titolo al Sole a pagina 3, Milano giù del 3%, e tra l'altro racconta invece a pagina 2 Isabella Bufacchi anche sui mercati dei titoli la questione ha fatto registrare una grande tensione, spread in rialzo, il tasso BTP è salito al 6%, così titolo al Sole a pagina 2, il differenziale con i Bund tedeschi è salito a quota 337, l'attacco sferrato all'euro, alla credibilità delle politiche europee a sostegno della stabilità dell'eurozona e della sopravvivenza del progetto di moneta unica ha nuovamente travolto ieri i titoli di Stato italiani e spagnoli, così racconta Isabella Bufacchi. Entrambi caduti vittima nell'immediato dell'inefficacia del secondo stress test sulle banche europee, sul lungo periodo dallo sbandamento decisionale che caratterizza da più di un anno e mezzo la gestione della crisi greca. E dunque i BTP a 2, 5 e 10 anni hanno chiuso con i rendimenti rispettivamente al 4,71, al 5,60 e al 6,02%. Sulle stesse scadenze i bonus spagnoli si sono portati al 4,58, 5,73 e 6,37%. Dunque travolti anche i bonus spagnoli, i mercati che Italia e Spagna le mantengono, due paesi davvero sotto grande attenzione. Ecco che all'interno di questo clima ieri c'è stato l'incontro al Quirinale tra il premier Berlusconi e il capo dello Stato Napolitano. Un incontro che tutti i quirinalisti, da Dino Pesole sul Sole 24 Ore a Marzio Breda sul Corriere della Sera, definiscono, questo è stato definito così dal Colle, interlocutorio. Traduzione del termine interlocutorio, si va dalle sfumature di Dino Pesole che dice un incontro interlocutorio, il che vuol dire formula diplomatica che sintetizza un sostanziale nulla di fatto. Per Marzio Breda del Corriere della Sera, interlocutorio vuol dire anche, per essere buoni, insomma, un incontro inutile. Tra l'altro racconta in prima pagina Marzio Breda, oltre che inutile, un incontro inconcludente, anche una visita anomala, dato che era stata chiesta attraverso Gianni Letta dal premier Berlusconi, forzando un calendario già stabilito e che dunque pareva concepita da Palazzo Chigi soprattutto come una sorta di sondaggio propedeutico al vertice serale col leader della Lega Bossi ad Arcole. Si è discusso anche di cosa? Della possibile sostituzione del ministro Alfano, sapete che è la settimana, dovevano essere oggi le dimissioni per la verità di Alfano, solo che qui tutti i giornali raccontano di un Berlusconi che è salito al colle con una rosa di possibili candidati alla successione. Si è arrivati a 8 proposti al capo dello Stato, da Renato Brunetta, Maurizio Lupi, Nitto Palma, Enrico La Loggia, Donato Bruno, ma anche Franco Frattini, Maria Stella Gelmini, Anna Maria Bernini e un tecnico, Carlo Nordio. Su questa rosa di nomi tutti i quotidiani, sia Dino Peso e Sul Sole, appunto il Corriere, ma anche Repubblica con Carmelo Lo Papa, dice beh, a questo punto Napolitano ha stoppato questa rosa di nomi, a dire la priorità è l'economia e non questo rimpasto o rimpastino di governo. Per Carmelo Lo Papa Berlusconi avrebbe tentato anche di puntarla sulla persecuzione giudiziaria. C'è un complotto contro di me, ma voglio il dialogo. Questo sarebbe stato l'esordio nel colloquio col capo dello Stato, con Gianni Letta presente in silenzio, non annuisce, perché la persecuzione giudiziaria danni del Premier non è all'ordine del giorno al vertice al Quirinale. Sta di fatto, insomma, che un incontro interlocutorio, se volete inutile, un incontro un po' freddino secondo altri. Secondo Iena sulla Stampa, l'incontro tra Napolitano e Berlusconi è andato benissimo, entrambi sono ancora vivi, così la vede Iena a pagina 3. Insomma, sta di fatto che Francesco Verderami racconta sul Corriere anche il dilemma del ministro della giustizia Alfano. Sono l'unico caso di ministro che vorrebbe andar via. Così da qualche giorno pare Alfano dica, in realtà è in un mutismo totale, ma racconta Verderami vuole dimettersi da ministro, forse fosse per lui lo farebbe subito, ma senso di responsabilità istituzionale e politica lo inducono al silenzio. Sta di fatto che va con questa battuta, questo doppio incarico, ministro e segretario del partito, davvero sta diventando per lui una morsa dalla quale vorrebbe sottrarsi. Sullo sfondo c'è appunto tutta la questione della Lega. Allora, la Lega, i vari giornali, tutti la dipingono come una Lega in difficoltà, così titola per esempio il Corriere a pagina 9, perché c'è la questione delle tensioni tra i bossiani e i maroniani, c'è la questione domani del voto alla Camera sull'arresto di Alfonso Papa. Allora, che farà la Lega? Perché Bossi ha cambiato versione in 2 giorni, 3 volte, prima in galera, poi non si manda nessuno in galera prima del processo, poi la Lega è orientata a dire di sì, però io non sono molto d'accordo. Insomma, ieri c'è stato il vertice ad Arcore, lunedì sera, come tradizione, tra Bossi e Berlusconi. Decisioni rimandate, la Lega in difficoltà, le rimandate a oggi. Oggi la scelta su come si comporteranno i leghisti domani in aula al voto, in cui si dovrà esprimere l'aula sull'arresto, sulla richiesta di arresto dell'onorevole Alfonso Papa. Umberto, non farmi autogol, questo sarebbe stato l'invito di Berlusconi a Bossi ieri al vertice, lo racconta Libero a pagina 13 con Salvatore Dama. Noi siamo il PDL e la Lega, loro i magistrati, così avrebbe detto Berlusconi. Se il Parlamento sacrifica un uomo, si offre braghe calate ai comodi di un potere dello Stato, l'ordine giudiziario. Siamo sotto assedio, oggi è peggio di Tangentopoli. Questo è l'appello di Berlusconi a Bossi, secondo Libero. Drammatizza i toni Berlusconi perché dice l'obiettivo sono sempre io, come dire, teniamo il punto su Alfonso Papa, perché se cediamo su di lui, allora cediamo all'ordine giudiziario, ai magistrati. Intanto la questione della manovra, c'è anche tutto il dubbio del ticket. Tra l'altro vi annuncio che alle 8:20 su ticket, manovra, tagli ai costi della politica, avremo come ospite in intervista il governatore della Lombardia, Roberto Formigoni. Allora, anche questa questione dei ticket non si capisce. 5 regioni, racconta Il Sole a pagina 13, per ora l'hanno fatto partire. 5 regioni hanno aderito: Lombardia, Lazio, Liguria, Puglia e Basilicata. Il resto d'Italia è in stand-by. Non so, cari italiani, questo ticket sanitario, 10 euro per le prestazioni, come lo giudicate? Male, immagino, perché è stato messo nella manovra. Sta di fatto che le regioni sono dubbiose, applicarlo oppure non applicarlo, perché certo è una misura impopolare, però la coperta, come si sa, è corta. Come dicevamo, il tema del nostro sondaggio è quello della casta. Torniamo su questo tema e noi vi chiediamo: vi chiedo, e vedere dai risultati mi sembra la risposta è no al 96% per ora, votate su Radio24.it, vi chiedo, secondo voi non c'è troppa esagerazione nei confronti della casta, cioè sta montando un clima davvero quasi di odio insopportabile nei confronti dei politici? E che forse è anche un po' troppo. Non la pensano così. Libero, Il Giornale, Il Fatto Quotidiano. Rivolta anticasta, titola Libero. Assedio ai papponi di Stato con Maurizio Belpietro, che fa l'editoriale dal titolo Chi non rinuncia ai privilegi perderà il seggio, scrive così: ieri ho ricevuto l'ennesima telefonata di un onorevole che cercava di convincermi di quanto sia sbagliata la nostra campagna contro la casta. Se ne taccio il nome è solo per carità di patria, in quanto lo conosco da anni. Il senso del colloquio era il seguente: voi di Libero avete ragione a lamentare il ritardo dei tagli di spese di Camera e Senato, ma non capite che la questione è più complessa. Che lo fosse non avevo dubbi, quando ci sono di mezzo i soldi la faccenda è sempre seria. Così titola il Libero: o tagliate o perde il seggio, e questo è l'editoriale di Maurizio Belpietro. Mentre per Il Giornale è Vittorio Feltri in prima pagina che firma: sotto la casta l'Italia crepa, titola Il Giornale in prima pagina. L'appello al centrodestra: chiunque osi fare due conti e concludere che i signori della casta esagerano nel concedersi privilegi da mandarini, scrive Feltri, viene accusato di alimentare un sentimento di facile presa, l'antipolitica guardato come un nemico della democrazia. In questi giorni l'indignazione montata si è trasformata in rabbia. Il clima che si fa creando somiglia a quello degli anni 90, inizio, ricordiamo come finì: Bettino Craxi scelto capro espiatorio e tempestato di monete metalliche, ovviamente di piccolo taglio. Stupirsi che la gente sia furibonda, scrive Feltri, è da stolti. Vuol dire vivere su Marte, distanti migliaia di chilometri dal paese reale. È vero, tagliare il numero dei parlamentari è un'operazione che richiede la modifica della Costituzione, ridurre le indennità di carica ai senatori e deputati non risolverebbe il problema del disavanzo, le auto blu talvolta sono necessarie, ma ciò che pretendono i cittadini è almeno un segno di buona volontà, un gesto emblematico. Risposta: scrollatine di spalle, sorrisi ironici, atteggiamenti arroganti. E così dice Feltri: attenzione centrodestra, diamoci una mossa o si va a ramengo. E anche Il Fatto Quotidiano in prima pagina mette un editoriale di Paolo Flores d'Arcais: l'ira civica. Così, questo è il titolo. Nei palazzi del potere, si chiede Flores d'Arcais, c'è ancora qualcuno cui si è rimasta un'oncia di senso di responsabilità? Tra Montecitorio, Palazzo Madama e il Quirinale, i signori della politica riescono a rendersi conto dell'ira civica che cresce di ora in ora contro un'intera classe politica che oscilla tra inettitudine e ruberia, abissale incompetenza e spudorata criminalità? E poi ancora più avanti: l'ira civica sta montando, l'indignazione diventa furia, diventerà rivolta, la marea tsunami. C'è un'Italia stremata la cui sacrosanta collera potrebbe virare a jacquerie. E insomma, questo è il clima. In questo clima la casta, verrebbe da dire, cosa fa? Beh, titolo della Padania: così tagliamo i costi della politica. Ecco la riforma che taglia la casta. Lo Stato sarà più snello ed efficiente. Presentata, qualcuno dice, in tempi un pochino sospetti, una proposta di riforma costituzionale, tempi dunque di approvazione un paio d'anni, questo che lo si sappia, che vede, non so, Senato federale, riduzione dei parlamentari, si pagano i parlamentari in base alle presenze, tutto bello, parlamentari tagliati, meno soldi agli assenti, ecco il progetto del ministro Calderoli. Sta di fatto che, insomma, ci vogliono un paio d'anni per questa proposta di riforma costituzionale. Ci basteranno? Non basteranno? Beh, chi lo sa, intanto la proposta è stata fatta, un progetto di riforma costituzionale che prevede tanti tagli alla politica, e che appunto è stato presentato ieri dal ministro Calderoli. in primo piano. Le due o tre chicche, il secolo XIX in prima pagina, Liguria, la pensione d'oro dei politici costa 5 milioni all'anno. Ai consiglieri basta una legislatura per guadagnare poi a vita 1.755 euro al mese, ma i più esperti arrivano a 4.000. Che vuol dire i più esperti? No, c'è tutto l'articolo di Alessandra Costante, evidentemente ci sono quelli che riescono anche a lucrare in modo tutto legale, in modo da avere 4.000 euro al mese. Oppure su Repubblica, Emanuele Lauria da Palermo, società da rottamare ma con stipendi d'oro, l'ultimo spreco siciliano. L'ultimo grido dalla Sicilia è dell'assessore all'economia Gaetano Armao: taglieremo gli stipendi delle società regionali. Ed eccole qui le società regionali, alcune: il CIEM, Centro per l'internazionalizzazione e la promozione dell'economia euromediterranea, un nome più lungo dell'aspettativa di vita. La società è in liquidazione, si sta cercando di trasferire 23 dipendenti in altri enti, ma nessuno li vuole, scrive Repubblica. C'è da capirli, solo il capo della struttura, Antonino Giuffre, il direttore generale, guadagna 13.300 euro lordi al mese. Oppure il direttore generale di Sicilia e Servizi, Dario Colombo, percepisce al netto dei premi una cifra annuale sui 250.000 euro e cumula questa indennità con quella di amministratore delegato della GESAP, che gestisce l'aeroporto di Palermo. Leonardo Palazzolo, responsabile del settore legale della stessa società, supera 200.000 euro. Allargando l'orizzonte, 13.000 euro lordi al mese, circa 9.000 netti, è per Vincenzo Paradiso, direttore di Sviluppo Italia-Sicilia. La Serit, società che si occupa della riscossione dei tributi nell'isola, il direttore generale Antonino Finanze, si attesta sui 160.000 euro lordi, sempre al netto dei premi. E così via, insomma, un elenco di stipendi di tutte le società regionali. Intanto il precario, quello che in rete Spider Truman, sta avendo sempre più successo, è arrivato a 300.000 contatti Facebook. Secondo qualcuno, un nome potrebbe essere Leonida Maria Tucci, quarantenne romano che dopo 15 anni di precariato al Senato è stato sbattuto fuori, secondo il Fatto, completamente rovinato fino al punto da doversi rivolgere alla Caritas per avere un pasto caldo, e anche in causa, credo, con credo il gruppo del PDL per cui ha lavorato per 15 anni. È lui? Non è lui? Oppure è un falso clamoroso? È uno che copia pezzi della casta di Stella e Rizzo e li mette su internet? Sta di fatto che il fenomeno anche mediatico c'è: 300.000 amici su Facebook in due o tre giorni. Vorrà dire qualcosa? Mentre lo psichiatra Alessandro Meluzzi, che è stato parlamentare, intervistato dal Secolo d'Italia, dice: la caccia al parlamentare è un delirio collettivo. Il mio periodo da parlamentare è quello in cui ho guadagnato meno. In tanti ci rimettono a fare i politici. Ecco, queste dichiarazioni non aiutano certo a rasserenare gli animi. Vabbè, trovate molto, comunque ne parleremo alle 8.30, trovate molto della vicenda del suicidio del numero 2 del San Raffaele, Mario Calla, il collaboratore più stretto di Don Luigi Verzé, che si è suicidato nell'ospedale. Trovate su tutti i giornali anche i racconti del presunto mistero della pistola spostata, il giallo sulla pistola spostata, così titola il Manifesto in prima pagina. E la pistola, chi ha spostato la pistola? In realtà pare, secondo il Corriere della Sera, secondo gli inquirenti, effettivamente che qualcuno abbia spostato la pistola. Il primo delle guardie giurate che è entrato, appena sentito lo sparo, subito dopo la segretaria, perché si è sparato nel suo ufficio al San Raffaele, ha spostato la pistola con la quale Mario Calla si è sparato, poi l'ha messa in una busta di plastica, un comportamento scorretto dal punto di vista degli inquirenti, raccontano gli stessi inquirenti, raccontano Alberto Berticelli e Gianni Santucci, per esempio, sul Corriere della Sera. La pistola viene ritrovata in un sacchetto, appunto un gesto errato dal punto di vista investigativo, ma un particolare che sembra già chiarito ai magistrati. Ma certo, vedrete che affioreranno anche le tesi su suicidio oppure no, morto in ospedale, il giallo della pistola dentro un sacchetto, ecco per esempio il titolo dell'Unità. Trovate anche molto di una morte in Gran Bretagna che per qualcuno è misteriosa. Beh, certo, la morte è è abbastanza sospetta, almeno per le coincidenze, è morto il reporter ribelle della scuderia di Murdoch, cioè colui che era già stato soprannominato la gola profonda, che aveva fatto partire tutta la vicenda che sta terremotando l'impero di Murdoch, un ex giornalista di News of the World, è stato trovato morto nella sua casa. Si tratta di Sean Hoyer, ex cronista del News of the World, tra l'altro, che raccontò anni fa una vita incredibile. Cioè, ha raccontato che il direttore allora di News of the World mi invitò a drogarmi e a ubriacarmi con le star dello spettacolo per diventare loro amici e così raccontare, poi spiattellare le storie su News of the World. L'unica regola era questa: ero pagato per prendere droga e alcol con le rock star. Fatti con loro, mi dicevano, prendi pillole con loro, sniffa coca con loro. La competizione era soffocante, non esisteva altro, ero diventato una macchina. Mi avevano spinto a fare cose che nessun essere umano sano di mente farebbe. Tutto questo in una intervista a confessione e in lacrime di qualche anno fa, per poi raccontare tutto sui giornali. Vabbè, volete la notizia gossip dell'estate? Pare, giusto per chiudere, visto che non è gossip lo scudetto all'Inter del 2006, anzi, derubrico la Gazzetta dello Sport. Così, la notizia gossip dell'estate pare, magari siete interessati a questo, dunque 10 secondi li dedico in chiusura, su Libero, la coppia da brivido, la Bella e il bestione clamoroso a Formentera, chi sono? Bobo Vieri, l'ex calciatore, e pare Nicole Minetti, consigliere regionale della Lombardia. E Nicole briffa con Bobo, ricordate il verbo briffare. 24 mattino, l'intervista. Alle 8.22 in punto, ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua, voglio salutare il governatore della Lombardia, Roberto Formigoni. Presidente, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, sul ticket sanitario previsto in manovra, lei ieri ha detto in Lombardia siamo tra Scilla e Cariddi, cioè ci faccia capire, si paga in Lombardia, si pagherà? È esattamente quello che stiamo valutando. Vede, la situazione è semplice in fondo. Lo Stato ci impone di far pagare i nostri cittadini il ticket. Dice, se volete invece pagarlo voi regione, liberi di farlo, ma i soldi a noi li dovete dare. E quindi è chiaro che noi regione, se volessimo pagare il ticket dei cittadini, dovremmo tirar via una sessantina di milioni da qui alla fine dell'anno, togliendoli ad altri servizi. Quindi o Scilla facciamo pagare il ticket ai cittadini, o Cariddi togliamo ai cittadini altri servizi e non gli facciamo pagare il ticket, perché la situazione è così, ma questa non è solo per la Lombardia, anche per le tutti, altre regioni. Ma siamo più a Scilla o a Cariddi? Non lo facciamo pagare, deve togliere ai cittadini altri servizi, quindi stiamo valutando che cosa sia meno doloroso fare. Credo domani si sarà la decisione, cioè siamo più tra Scilla, sì, più verso i cittadini o più verso... Guardi, ho convocato i miei tecnici per oggi pomeriggio, mi porteranno tutte le valutazioni, tutte le soluzioni possibili, poi domattina abbiamo la giunta e prenderemo la decisione. Ma lei piace questo ticket? No, perché... assolutamente no. Guardi, io ho fatto una battaglia durissima nel 2007 quando è stato inserito dal governo precedente, abbiamo anche fatto ricorso alla Corte Costituzionale, la quale ci ha dato torto, ha detto che il governo può inserire il ticket. Allora il governo Prodi allora ebbe ragione di fronte alla Corte Costituzionale a inserire il ticket, poi la battaglia delle regioni fece sì che il governo successivo togliesse il ticket, oggi lo hanno reintrodotto, è chiaro che costituzionale era, quindi costituzionale rimane, si tratta di qualche cosa che a mio giudizio non va bene. Teniamo conto tuttavia che in Lombardia chi paga il ticket è circa il 30% delle persone, quelli con i redditi alti, sono esenti fra l'altro gli under 14 e gli over 65. Insomma, di tutti i tipi. Uno degli aspetti della manovra che non le piace, ma le chiedo, secondo lei questa manovra Berlusconi la più voluta o la più subita? Ma credo che sia chiaro, l'ha subita assolutamente, non fa parte del suo spirito, non fa parte del suo DNA, tuttavia dobbiamo anche dire che è una manovra che purtroppo il nostro paese doveva fare, la situazione dell'euro è sotto gli occhi di tutti, la situazione dell'economia mondiale, siamo in una fase in cui perfino la grande economia degli Stati Uniti d'America è in pericolo, se non prenderanno loro provvedimenti entro pochi giorni rischia di andare in default gli Stati Uniti, quindi è chiaro che è un'epoca in cui inevitabilmente tutti i paesi del mondo sono chiamati a stringere la cinghia. Tuttavia io credo, per completare, certo credo che in Italia la manovra poteva essere modulata diversamente. Diversamente. Magari vediamo sui costi della politica tra un attimo, però Presidente, le vorrei chiedere questo. Ieri c'è stato il suicidio di Mario Cala a San Raffaele, sul quale si è innescata una polemica, nel senso che Francesco Rutelli ha detto anche la Regione Lombardia perché non ha controllato quel bilancio, quel maxi buco finanziario da 1 miliardo pare di euro al San Raffaele? Ma il San Raffaele è un'azienda privata, Rutelli si confonde, voglio dire, le aziende private vivono secondo le loro regole, lei immagina che un governo regionale e nazionale si intrometta nell'economia fino a controllare, a sindacare sui bilanci privati? Noi abbiamo un altro compito di controllo, noi compravamo e continuiamo a comprare prestazioni sanitarie da San Raffaele, che San Raffaele dà ai cittadini, le compriamo, le remuneriamo secondo un tariffario regionale, controlliamo che queste prestazioni sanitarie siano fatte a regola d'arte e siano prestazioni dovute ai cittadini e non un di più fatto per guadagnare. Questo è il nostro dovere, se andassimo al di là violeremmo il nostro dovere, quindi Rutelli ha detto proprio una castroneria. Una castroneria. Senta, su che cosa va fatta una nuova rimodulazione, andava fatta una rimodulazione diversa secondo lei sulla manovra, cioè cosa non le piace? Quello che insiste sui ceti più deboli, sui ceti popolari, sulle famiglie, soprattutto la famiglia a mio avviso oggi è il vero soggetto debole di questa società, le piccole aziende, gli artigiani sono quelli che vanno aiutati a innovare, a crescere, a esportare, altrimenti rischiamo di mettere i conti in ordine ma poi di avere un'economia che non riesce più a tirare il fiato, di accompagnare al funerale i ceti medi, i ceti popolari. Ma siamo sul Titanic, dice Tremonti. Quindi... Non ha torto, l'immagine è certamente drammatica al punto giusto, però ripeto, quando siamo sul Titanic si tratta di vedere, di magari di raccogliere tutte le ricchezze che ci sono a bordo del Titanic e di vedere in un'ottica di solidarietà come si fa a salvare il carico più prezioso del Titanic, che sono le persone, magari sacrificando i beni. Senta, sui costi della politica, prima dei contenuti, lei è stato criticato per questa intervista fatta in Sardegna, ma dov'era in questa intervista? Le confesso, ho commesso un peccato gravissimo, siccome sabato mattina ero in Sardegna per un convegno politico, mi sono fermato anche il sabato pomeriggio e la domenica, mi sono fatto un giorno e mezzo di vacanza. Questo è il mio peccato. Non ero a bordo di New York, non ero a Porto Cervo, quindi questi signori che criticano. Però ero in Sardegna, sì, e per questo mi ha fatto sì che diffusasi la notizia. Ho ricevuto molte telefonate, molte mail da sardi, da cittadini sardi che mi hanno detto: bene Formigoni, continua a venire al mare in Sardegna invece di andare a Sharm el Sheikh o in Costa Azzurra o alle Maldive, come fanno milioni di italiani. Però questo fa capire, fra cui anche quelli che mi criticano, questo le Maldive. Questo fa capire il clima, Presidente, lo vede anche che lei oggi, se legge i giornali, sono tutti articoli, anche noi tra poco ne parleremo nel nostro sondaggio, tutti articoli, fondi di attacco contro la casta. Lei si sente di far parte di una casta, la casta per eccellenza? Guardi, io dico che bisogna fare un discorso serio, via i privilegi, via le caste, ma salviamo chi fa fino in fondo il proprio dovere. In questi giorni c'è stata una polemica contro i dipendenti di Regione Lombardia, perché secondo 3 giornali che si pubblicano a Milano prenderebbero troppi soldi. Io li ho difesi a spada tratta, i miei dipendenti vengono remunerati secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro e sono tra i migliori d'Italia, perché se la Lombardia è ben amministrata, se ha la sanità migliore d'Italia, se ha la scuola migliore d'Italia, lo deve anche alla bontà dei miei dirigenti. Tante volte i miei dirigenti mi vengono a dire: ho ricevuto un'offerta dal privato che mi dà 1,5 volte, 2, con le lacrime agli occhi mi dicono: devo andarmene, oppure dicono: io Presidente resisto perché credo nel suo progetto, ecco, questa è la cassa. Oppure noi politici, oggi per oggi e domani avanzerò una serie di proposte, ci ridurremo ancora come consiglieri regionali, proporrò di ridurre le emolumenti consiglieri regionali, però teniamo conto che i consiglieri regionali di Lombardia sono i meno numerosi d'Italia, noi abbiamo un consigliere regionale ogni 157.000 abitanti, le altre regioni hanno un consigliere regionale ogni 80.000 abitanti, 30.000 abitanti, forse c'è qualche differenza. Sì, c'è differenza. Ultima cosa, io ho tagliato il tagliabile in questi anni, la Lombardia è la regione che per il proprio funzionamento chiede meno di tutti ai propri cittadini, chiediamo 37 euro per il funzionamento di Regione Lombardia, le altre regioni chiedono da 56 euro in più, quindi moltissime opere pratiche, le auto blu, tutti questi orpelli li abbiamo già tagliati da anni, oggi francamente è difficile trovare ancora qualcosa da tagliare. Eppure monta davvero questa protesta. Un'ultima domanda, Presidente, la questione dell'Expo, lei farebbe volentieri uno dei due commissari, uno è il sindaco di Milano, ma l'altro Pisapia ha detto: se lo fa Formigoni va bene, insomma. Ma guarda, guardi, questa può essere la ripartizione di compiti. Ecco, chiariamo subito, non ci sarebbero due commissari, sarebbero attribuiti dei poteri commissariali al sindaco di Milano, sì, dei poteri commissariali, sì, al presidente di regione. Sono già due persone costrette a lavorare 22 ore al giorno per l'Expo, non avremo appunto nomine in più, remunerazioni in più, siamo disponibili, visto che dobbiamo collaborare e vogliamo collaborare, pur portando punti di vista diversi, ma vogliamo fare un Expo che integri i nostri punti di vista e i punti di vista di tutti, questa potrebbe essere una buona soluzione. Allora la ringrazio, buona giornata. Grazie per essere stato con noi, Roberto Formigoni, il governatore della regione Lombardia. 24 mattino. Alle 8:34 minuti, eccoci qua. Allora, io leggo tre titoli per lanciare il nostro sondaggio. Libero, assedio ai papponi di Stato, rivolta anticasta. Il Giornale, sotto la casta l'Italia crepa. E il titolo invece editoriale del Fatto Quotidiano di Flores D'Arcais, l'ira civica che sta montando della gente. Allora vi chiediamo oggi, secondo voi non si sta esagerando nei confronti dell'accanimento contro la politica per quel che riguarda l'attacco alla casta? Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? La risposta degli ascoltatori che votano su Radio 24 è per il 97%. No, non stiamo esagerando. Oscar Giannino, buongiorno. Stiamo esagerando? Sì, stiamo esagerando perché loro non ci restituiscono niente, si tengono tutto, hanno il culo sulla sedia e dicono marameo. Quindi stiamo esagerando perché abbiamo toccato il limite, l'abbiamo oltrepassato, nel quale veramente il 3% che secondo me dice che non esagerano sono i politici nascosti. Sono i politici nascosti. Il ritorno di Oscar Giannino qui a Bianco Nero, ben ritrovato ovviamente con lui, e voglio salutare due ospiti al telefono, l'onorevole Paolo Cirino Pomicino, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Come saluto Dario Galli, presidente della provincia di Varese della Lega. Buongiorno presidente. Sì, buongiorno a voi ascoltatori. Anche se lei presidente, abbiamo scoperto, anche consigliere comunale, se non sbaglio, mi corregga, perché magari sì, dal mio comune, sì. È consigliere comunale, nel consiglio di amministrazione di Finmeccanica e anche tra gli amministratori del Financiar Fideuram, così leggevo ieri sul Fatto Quotidiano. È vero? Quella è una questione di lavoro mia personale, sì, no, quella certo, di Finmeccanica, certo. Sì, certo. Allora, molti giornalisti facciano molti mestieri. Sì, beh, certo. Oscar, eccoci qua. Allora, Paolo Cirino Pomicino, vuole iniziare lei? C'è accanimento nei confronti della... Certo che c'è accanimento. C'è accanimento. Qualcosa anche di più. Questo è un paese che non ha fiatato, non ha detto una parola quando questo governo vergognosamente ha fatto rientrare 100 miliardi di capitali dentro il paese, dando il 5% soltanto come pagamento rispetto al 40% della imposizione di un comune cittadino. Quindi si stanno accanendo, e aggiungo però che dinanzi a una manovra vergognosa la politica deve fare anche la sua parte, cioè deve avere la possibilità di ridurre in maniera significativa alcune spese della politica, in particolare i cosiddetti contributi elettorali, che sono 5 volte quelli che erano nel 1991. Ma questo lo fa la politica, perché sa, oggi Vittorio Feltri scrive: stupirsi che la gente sia furibonda vuol dire vivere su Marte, distanti migliaia di chilometri dal paese reale, è da stolti. Ma vede, io conosco il mio amico Feltri, con il quale ho collaborato 15 anni. Lui ogni giorno, lui e il mio amico Belpietro, se non danno una notizia impressionante, il giornale non esce, quindi ogni volta deve dare una notizia impressionante. Io avrei capito se, ad esempio, quando ho fatto il dato dello scudo fiscale, avrebbero dovuto fare lo stesso titolo dicendo 100 miliardi di evasori sono arrivati in Italia, sono ritornati in Italia, hanno pagato il 5%, mentre i contribuenti pagano dal 27% al 33%, al 41%. Insomma, la posizione... nessuno si è standardizzato. Nessuno si è standardizzato. Questo, ripeto, va di bene che una cosa è il contributo elettorale ai partiti, che vanno ridotti. Una cosa è invece la vicenda del parlamentare. Il parlamentare ha un trattamento che è pari all'85% dei magistrati. Io non lo sono più, ma insomma ho il dovere di difendere, ma non in maniera d'ufficio, perché vanno ridotti i costi della politica, ma non accanendosi in quella maniera, che testimonia una cosa molto semplice, molto banale. chi ha la voglia di gestire questo paese senza esporsi più di tanto deve mettere in ginocchio il Parlamento, che in realtà fa di tutto per farsi odiare. Questo Parlamento fa di tutto. Su questo sì. Oscar Giannino, oggi leggiamo sui giornali che qualcuno fa sospettare, con tempi un pochino vagamente sospetti, è spuntata una proposta di legge di riforma costituzionale, tempo di approvazione, tu mi insegni un paio d'anni se tutto va bene, per la riduzione dei costi della politica. Allora, si sta esagerando oppure io un pochino, ieri abbiamo discusso, dico un pochino forse ci si sta accanendo, no? Come se fosse il marcio solo nelle istituzioni. Uno nelle istituzioni è uguale a un delinquente oggi. Forse un po' troppo o no? No, ma io non sono tra quelli che sostengono che è un delinquente. Dico la seguente faccenda. Non sono per il mal comune mezzo gaudio. Quindi Paolo Sino Pomicino, che è un amico che saluto, quando dice gli evasori 100 miliardi e 5% è altrettanto vergognoso, non è che siccome ci sono gli evasori allora mi piace che i politici guadagnino troppo, quindi quello è un argomento, ci sono anche gli evasori in Italia, purtroppo sì. Detto questo, anche Paolo Sino Pomicino dice 5 volte quelli che erano nel 91 i contributi ai partiti, quindi dato di fatto, quindi intanto cominciamo a ridurli non alla mancanza di democrazia, ma a una democrazia tollerabile. Terzo, c'è un elemento di fatto, gli italiani hanno nel basso reddito disponibile per le qualifiche di lavoro basse e medie e chi campa con la pensione molto bassa, hanno in questi anni l'ennesima conferma di uno Stato che gli mette le mani in tasca, e questo mi dispiace dirlo, il centrodestra che proprio aveva promesso che non lo faceva e che abbassava le tasse, fa l'opposto, fa esattamente come la sinistra. E questo a me duole e dispiace, perché è noto che la penso in tutt'altro modo, non sono sospettabile di essere pregiudizialmente favorevole alla sinistra. A tutti questi milioni di italiani, vedere l'ostinazione, la tenacia con cui i politici non riescono ad abbassarsi, non di un euro, ma di molte migliaia di euro, gli emolumenti, i trattamenti, le indennità, le pensioni scandalosamente accumulate con poco. Io non lo dico perché se la politica non fa questo diventa indifendibile. Quindi il mio punto di vista è il contrario. Paolo Sino Pomicino mi conosce da quando ero ragazzino, sa con la tenacia con cui ci siamo battuti da punti di vista diversi perché la politica non venisse travolta, ma questa politica 17 anni dopo che rimane abbarbicata su trattamenti molto più scandalosamente indifendibili addirittura di quelli di 20 anni fa agli occhi degli italiani che se la battono male, ecco, questa politica diventa degna di essere non travolta ma molto attaccata, perché è incredibile. Oltretutto se lo fa un centrodestra che ha sempre dichiarato in questo di essere diverso, opposto, distinto dall'elite abbarbicata, poi alla fine vai a vedere agli occhi degli italiani la differenza qual è? Nessuno. Te dici 17 anni fa, l'epoca, certo, o 19, certo, no, 19 mani pulite, d'accordo, quella sì, lì, sì, quella lì. Allora, Dario Galli, presidente della provincia di Varese, lei ha fatto questa proposta che qualcuno accusa di benaltrismo, no? Cioè dire aboliamo le province, vabbè no, iniziamo magari dalle regioni piccole, che ne so, perché ci deve essere il Molise, perché ci deve essere l'Umbria, e questo le ha valsa anche una polemica a stretto giro di posta con la presidente dell'Umbria. Perché Galli? No, diciamo, io ho fatto in realtà un ragionamento un pochino più ampio e voglio precisare, visto che qualcuno mi ha mandato qualche email, forse travisando le mie parole, che non ho detto di chiudere una cosa piuttosto che l'altra. Secondo la domanda era, l'intervista che è stata rilasciata, la questione delle province eccetera, su cui sappiamo che c'è una polemica da anni, su cui sappiamo che anche il dottor Giannino ha una sua idea precisa, che andrebbe magari un po' più articolata, però sappiamo che è una certa posizione eccetera. Abbiamo detto che sulla questione province il problema è solo quello di organizzare lo Stato in maniera ragionevole. La provincia ha una sua ragione di esistere per il tipo di lavoro che fa, se ha un territorio e una popolazione adeguata, come si fa in qualunque organizzazione industriale o di qualunque altro tipo. Quindi le 107 province attuali, più Trento e Bolzano, che esistono in Italia, dal mio punto di vista, ma anche dal punto di vista dell'associazione delle province sostanzialmente, sarebbe quello di ridurle a non più, credo, di 60-70 in maniera che abbiano comunque un territorio, una popolazione adeguata. Ma però Presidente poi detto... Galli, ma quale riusciremmo a ridurre? Se se ne vogliono fare di più addirittura, come... Cioè, chi... Ma scusi, questa è la posizione ufficiale, guarda anche gli ultimi incontri, convegni, cose che abbiamo lasciato come UPI, questa è la posizione. Poi che poi singolarmente ci siano territori dove le richieste sono diverse, e questo capita in qualunque altra cosa. Chiunque vada a contrattare un accordo di qualunque tipo chiederà il massimo per sé, evidentemente, ma la posizione ufficiale è questa. Per cui ho detto, dopo aver detto questa cosa, però andiamo avanti e guardiamo le altre cose dello Stato, perché è inutile che riduciamo per esempio solo le province. basta, e poi ho detto questa frase: quando ci sono regioni che sono più piccole, per esempio della provincia di Varese, ho fatto l'esempio di quelli più piccoli, per cui a questo punto anche le 20 regioni, se diventassero per esempio le 12 che la Fondazione Agnelli già 20 o 30 anni fa aveva indicato, sarebbe probabilmente più ragionevole. Infatti è questo, 20-30 anni fa. Io vorrei, Paolo Cirino Pomicino, lei teme, perché guardi che molti messaggi ci arrivano a dire basta, tutti in piazza, la misura è colma, cioè il clima è questo, rischiamo un clima di 20 anni fa, 19 anni fa, insomma quel clima lì delle monetine? Assolutamente, premesso che la volta scorsa la piazza non fu rumorosa come sembra lo sia adesso, però attenti, io lo voglio dire a chi ci ascolta, diffidate dalla piazza, che in genere è sempre fonte di violenza e di autoritarismo. E vi dico anche un'altra cosa: il Parlamento della Repubblica è come la salute, ci si accorge della sua importanza quando non c'è più. E nella storia di questo paese chi ha la mia età e chi ha qualche anno ancora in più se lo ricorda. Devo aggiungere ancora agli amici di Radio 24 di dare un'informazione corretta. Io ho detto una cosa semplice, ho detto che i parlamentari ad oggi hanno l'85% del trattamento dei magistrati per legge. Sì, sì, certo. Aspetta un attimo, l'ultima cosa che devo dire è che quelle storture che c'erano una volta, che erano diciamo di una o due persone, oggi sono diventate di massa, tant'è vero che hanno modificato. Oggi la pensione il parlamentare la piglia o a 60 o a 65 anni, non la prende prima. Perché? Perché prima in genere un parlamentare stava almeno 3-4 legislature, oggi invece si fa una legislatura e poi si torna a casa. Quindi in questo senso qua già si è modificato. Qualcosa si è modificato, qualcosa si è mosso. E faccio un'ultima proposta. Come hanno fatto il prelievo, sbagliando a mio giudizio, il prelievo del 5% sui pensionati che hanno 90.000 euro lordi l'anno, benissimo, anche i deputati possono tranquillamente, i deputati, chi ha il vitalizio, quindi me stesso nel caso specifico, di avere lo stesso tipo di contributo. Ho capito, Cirino Pomicino, qui mi devo fermare per il traffico, ma ripartiamo, è che si dice, cioè si faccia, si tolga. Oggi pomeriggio si incontrano i questori. I questori di Camera e Senato si incontrano per fare alcune sforbiciate. Ma alcune proposte di sforbiciate, proposte, ma poi le devono varare le singole assemblee, e su questo non ci saranno problemi. No, ma su questo vedremo. Si fermi un attimo, devo dare le informazioni sul traffico, poi entra Oscar Giannini. Insomma, Oscar, sembra che qua stiamo, però tra un attimo, sembra che stiamo esagerando, tutti i giornali stanno un po' esagerando questa questione. Io sono o blanco o nero, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, Oscar Giannino, oggi vince lo psichiatra Alessandro Meluzzi, intervistato dal Secolo d'Italia, dice: ho fatto il parlamentare, è stato il periodo della mia vita in cui ho guadagnato di meno. In tanti ci rimettono, sa, a fare i politici. Io ho perso la professione, sono uscito dalla professione, poi è stato difficile rientrare, eccetera, eccetera, eccetera. Stiamo esagerando, Oscar. Era una domanda. Stiamo esagerando? La mia risposta è sì, stiamo esagerando ancora una volta a presentare, e lo dico con tutto rispetto per Paolo Cirino Pomicino, la politica, questa politica in questi anni ha molto più perso dignità di quanto non sembrasse possibile alcuni anni fa, e siccome ha perso la dignità che venga incalzata dallo stesso popolo che ha sperato da lei chissà quale rinnovamento delle istituzioni della politica italiana, per gente che ha fatto politica anche prima, io non sono stupito, ma trovo che sia anche giusto che ci sia una certa durezza, che gli italiani delusi da questi politici chiedano loro conto del fatto che tutto quello che avevano promesso loro, non la politica in generale, non le istituzioni in generale, non gli uomini di lungo corso della politica e delle istituzioni, che loro non abbiano toccato di una virgola ciò che hanno trovato, e che oggi è ancora più difficilmente accettabile quando si rimettono le mani nelle tasche degli italiani. Questo credo profondamente, che Paolo Cirino Pomicino fa bene a dire attenzione alle istituzioni. E anche attenzione alla piazza, diffidate dalla piazza. Ma diffidate dalla piazza è sano, perché in una democrazia complessa i problemi sono complessi e la piazza va sempre alla semplificazione. Ma il problema dei troppi politici in Italia, troppi livelli sovrapposti, troppa moltiplicazione di roba decisa dai partiti, è che il centrodestra negli anni in cui è stato predominante non ha minimamente sfiorato, questo è il bilancio di una lunga stagione politica. E a me dispiace per gli amici leghisti che sono nati con una pressione dal basso per far piazza pulita di tutta questa roba, che alla fine della fiera, in tanti anni, sempre una crisi internazionale oggi, un attacco di un giudice domani, un processo contro il premier dopodomani, un processo per il collaboratore di Tremonti il giorno dopodomani, ce n'è sempre una, perché alla fine, per senso di responsabilità naturalmente e cooperazione con il premier, si rinvia, si rimanda e non si fa niente. E alla fine, agli occhi della gente, del loro popolo, di quello che per tanti anni ha votato soprattutto nel centrodestra, i soldi, le indennità, i vitalizi, i privilegi, le automobili, le amanti, gli amici, tutto questo col decoro delle istituzioni non c'entra, perché è questo che viola, che oltraggia, che calpesta il decoro delle istituzioni agli occhi di milioni di italiani per bene. Infatti, non degli evasori, di quelli che le tasse le pagano e che volevano un'Italia diversa, era stata promessa loro da chi governa oggi, questo è il punto. Infatti la Lega pare sia in difficoltà su questo punto, ma tra poco lo chiediamo anche a Dario Galli. Sai quanto guadagna un barbiere alla Camera? Pare, ma oggi i tre questori, che sono i tre onorevoli e tre senatori, tre questori di Camera e Senato, si troveranno e forse daranno una sforbiciata al barbiere, che è anche una bella figura retorica. Ho letto 11.000 euro al mese, un pare, tutti a mandare il curriculum, tutti i barbieri d'Italia alla Camera. Come che non c'ho capelli. Luca da Cesena, buongiorno. Luca. Ah, buongiorno, Luca. Sono qua, ascolti. Dai, fa il barbiere lei? Magari no, io magari alla Camera. Io semplicemente lavoro tutti i giorni, lavoro da anni, come ha detto panettiere che ha telefonato ieri. Sì, sì. E che mi ha colpito la sua telefonata. Cioè, ha colpito anche noi. Devo dire che posso fare questa parentesi. Abbiamo avvisato le forze dell'ordine. Il panettiere è andato avanti, ha bruciato l'F24 ieri in piazza Modena, però si è fermato lì come le avevamo consigliato. Però per me quella telefonata è emblematica. Sì. È emblematica perché dà un segno, ha perfettamente ragione, dal segno della disperazione a cui si giunge per il terrorismo dell'Agenzia delle Entrate. Assolutamente, io avrei voluto telefonare giovedì o venerdì, quando è stata approvata la manovra, e quando ho sentito parlare di straguadagno lì da voi. Sì, sì. Perché sono sincero, mi assumo la responsabilità di quello che dico. Se l'avessi lì avuto davanti, no, nel momento in cui stavo una manovra finanziaria in che cui facevo? Parlano di detrazioni fiscali, asili nido, via dicendo, e lui mi dice: ma lo sapete, c'è modo di risparmiare? La Camera paga 9.000 euro mensili per l'affitto di un appartamento. Gli avrei messo le mani addosso. No, Luca, non dica così. Avrebbe energicamente dissentito. Avrebbe detto: sta dicendo una castroneria. Ecco, questo. Ah, sì. Allora, ecco. La gente è esasperata. Basta con questo modo di fare politica. Basta. Cirino Pomicino adesso sta dicendo: il Parlamento è importante. Allora, io in Parlamento voglio gente che sia degna di stare in Parlamento, che si renda conto di queste cose qui. Non mi può fare una manovra finanziaria del genere e poi sbattermi in faccia i soldi che vengono buttati via tutti i giorni. Va bene, basta, Luca, grazie. Basta, questa gente deve andare a casa. Basta. E la piazza è importante per queste cose qui. Ci siamo andati poco in piazza a dire basta. Adesso è il momento di andarci. Io sono andato in piazza. No, ma guardi, c'è molti politici lo dicono, ieri credo Deborah Serracchiani, se non stiamo attenti ci vengono a prendere coi forconi. Dario Galli, le chiedo, da leghista, oltre che da presidente della provincia di Varese, come ha detto Oscar Giannino, il popolo della Lega, secondo lei, come vede questa Lega nata come una Lega di lotta contro anche questi privilegi che adesso, insomma, di questo sistema fa parte? Ecco, queste sono risposte che al popolo della Lega voi dovete. Io direi che intanto non si può, come dire, fare tutto un erba un fascio, ma entrare poi nel merito delle questioni. Io ricordo una cosa molto semplice: nel 2006, con la Lega al governo, la riforma con la riduzione dei parlamentari era già diventata legge costituzionale, oltretutto con 4 passaggi. Ricordo anche che il popolo, per esempio ricordo la Sicilia, all'80% bocciò il referendum. Che è vero, aveva qualche seme di federalismo, quindi poi era stata presentata come il principio della secessione, chissà quale altre cose. Però oggi, nel 2012 o nel 2013, secondo quando si andrà a votare, avremmo avuto un Parlamento già con 25% in meno di parlamentari. Io sono presidente di una provincia di quasi 1 milione di abitanti, io prendo come emolumento 2.800 euro netti al mese. Non ho l'auto blu, potete verificarlo quando volete. Non so se sono l'unica provincia d'Italia, ma in provincia di Varese non c'è l'auto blu con gli autisti e tutto il resto per il presidente. Però scusi, in questi tre anni in cui faccio presidente, pur avendo la provincia che già in partenza con circa 620-630 dipendenti su 1 milione di abitanti, era tra quelli che aveva meno dipendenti in Italia, dopo tre anni ho altri 100 dipendenti Tutti le fanno, alla fine andiamo a vedere che senza stravolgere il paese o fare chissà quali disastri, col 20, 30, 40, 50% in meno delle tasse, se tutti facessero come la provincia di Varese, se tutti facessero come la regione Lombardia, lo Stato italiano sarebbe però presidente stesso. Questa sembra un po' un mantra però presidente mi sembra un po' il mantra, vorrei su questo anche Oscar Giannino, di Meluzzi che dice a fare la politica ci ho pure perso, cioè rappresentazione è che rischia personale. Anche un po' di dirigente d'azienda, non avessi voluto fare politica non l'avrebbe fatto a fare quello che faceva oggi avrei guadagnato 4-5 volte di più. Lo dico soltanto per dire di non pensare chissà che cosa, c'è anche chi fa 12 ore al giorno come un presidente di provincia normale, per dire, e porta a casa quello che porta a casa un impiegato di buon livello in banca. Vorrei capire Oscar Giannino, no, su questo l'idea di fare tutta l'erbon fascia è questa, almeno un rischio. Anche Cirino Pomicino vorrei coinvolgere su questo, Giannino e Cirino Pomicino, cioè c'è il rischio di dire, come dice Dario Galli, ma insomma io mi do da fare, io credo nella politica, lavoro 12 ore al giorno. Ma per carità, che grazie ai diversi tipi di impegno, ciascuno secondo il proprio orientamento, e comunque è un fatto, no, che ci sono delle province, delle regioni italiane, lo abbiamo detto tante volte occupandocene degli esiti dell'amministrazione, che con meno risorse ottengono qualità di servizio migliore, eccetera, quindi questo non si discute, però qui non stiamo discutendo della buona volontà e degli esiti di migliore amministrazione comparata, della buona volontà del politico, noi stiamo discutendo di un'altra cosa, stiamo discutendo del fatto che questa reazione, per alcuni eccessiva, per alcuni addirittura pericolosa, è una reazione che nasce perché nella versione iniziale della manovra, che conosco bene perché ci avevo messo le mani, per così dire, allora, c'erano delle proposte che poi quando arrivano a Palazzo Chigi, non in Parlamento, l'opposizione eccetera eccetera, spariscono e poi nella versione finale esitano in una commissione presieduta dal presidente dell'Istat che ci dirà come allineare gli emolumenti, i trattamenti e le indennità. Prima versione originale alla media dei 27 paesi dell'Europa, poi è diventata la media dei 6 paesi maggiori, anzi dei paesi dell'euroarea, poi dei 6 paesi maggiori e poi dei 6 paesi maggiori indicizzata al PIL. Quando la gente vede ticket che comincia da ieri a essere pagato, sì. E questa invece versione originale di Giulio Tremonti, quindi, che viene diluita per 4 volte di seguito ed esita alla fine in una roba che, come al solito, dice i parlamentari che dicono diciamo quanto i magistrati che dicono quanto i parlamentari, la gente dice ci avete rotto le palle. E poi tentano di abolire gli ordini e 134 parlamentari avvocati. Non votiamo, però quello è un altro paio di maniche ulteriore, il segno dei cappelli. Però ecco, la reazione c'è per l'ennesima volta, è avvenuto questo ed è avvenuto totalmente all'interno del circuito del centrodestra. Allora, non c'è spazio per Paolo Cirino Pomicino su questo tema, mi scuso, ma insomma il tempo chiude, ma torneremo su questo tema, vedrà, perché il tema è molto caldo, la gente come ci chiama. Mi spiace che sembra che ho parlato io e non lui, quindi un abbraccio a Paolo Cirino Pomicino. Ma certo, la gente dice non ne possiamo più. Questo è un sentimento diffuso che 300.000... Ma vogliamo rispettarlo o pensare che è sedizione? Ma no, certo. Vogliamo dire che la gente confronta quello che vede fare a un parlamentare. Ma che scherzi, ma se 300.000 persone diventano amici di questo sedicente, forse ex dipendente che vuole spiattellare tutto, 300.000, sarà vero o no? Ma il dato di fatto è una notizia che 300.000... Allora. Grazie a Laura Faggini, redazione con Elisabetta Fusconi, anche Franco Piantanida, siamo in tanti oggi, Roberto Scaltritti in regia. E allora la linea è abbasso lo stato ladro sempre. Come vedete è caldo oggi. Oscar Giannino, tra poco.